Un conoscente nell'abisso. 24 aprile. Secondo mio proposito di non scrivere più di queste cose non fu di lunga durata. La cosa non va. Io non posso aver tregua. Da oltre 14 giorni viene un uomo assai triste e miserevole. Lo si può sopportare, ma non lo conosco. 27 aprile. Egli era molto agitato e piangeva. 30 aprile. Egli piombò in pieno giorno nella mia stanza come fosse stato inseguito, aveva la testa e le mani piene di sangue. Io, che cosa posso fare per aiutarti? Lui, dammi la tua mano. Io gliela diedi con gran timore e sapendo o presentendo che anch'essa si sarebbe macchiata di sangue. Invece niente di tutto ciò. Solo esse erano molto calde. Io, come ti può giovare sta cosa? Lui, tu rinfreschi. Io, chi sei? Lui, mi devi pur conoscere. Io, no, non ti conosco. Lui, io sono sepolto nell'abisso. Io, la tua anima o il tuo corpo? Lui, il mio involucro. Io, e come ti chiami? Lui, Luigi. Non ho la minima idea di chi possa essere. Primo maggio. Venne di nuovo di giorno. Ho visto benissimo che la sua testa era tutta sfracellata. Io, perché sei così pieno di sangue? Lui, perché nessuno me lo netta via. Io, devo farlo io. Lui, tu non capisci il mio linguaggio. Io, tu parli in maniera simbolica. È sangue, cioè dolore? Lui, sì, io sono dimenticato nell'abisso. E se ne andò piangendo. 3 maggio. Quando entrai in stanza, lui teneva la maniglia della porta. Strano. Questa circostanza mi spaventò assai più che non alla stessa apparizione. Io, dimmi, perché parli sempre di abisso? Lui, perché sono lì. Io, è il modo di dire di un castigo? Lui, no. Poi si lanciò contro di me come se volesse farmi del male. Io, stai fermo, che cosa vuoi di speciale? Lui, tu mi devi conoscere. Ma davvero non lo conosco. 3 e 4 maggio. Egli fu anche troppo da me e non parlò. 5 maggio. Mi venne in mente che poteva essere Luigi Z, che nel 1879 fu. Fu un grande rocciatore e credo sia morto al Todi, per una sciagura alpinistica. Purtroppo oggi non venne. Nota. Todi è una montagna nel Glaronese, Svizzera, alta 3620 metri. 6 maggio. Allora è proprio come pensavo. Io, sei il signor Z dell'infortunio alpinistico? Lui, tu mi liberi. Io, in che modo può esserti utile che io ti conosca? Lui. Allora mi darai di più. Io, questo non cambia niente nei miei rapporti. Io faccio quello che posso. Le tue ossa sono ancora giù nell'abisso? Lui, sì, io, ma questo non nuoce per niente alla tua anima perché tu sei salvo. Lui, salvato, ma nell'abisso. Dall'abisso io grido verso di te. Io, devi ancora espiare così tanto? Lui, tutta la mia vita fu senza un contenuto o un valore. Quanto sono povero. Prega per me. Nota. Sport e turismo non sono il fine e lo scopo della nostra vita. Di esso non rimane che il vuoto e la povertà dello spirito. Quanto pochi si avvantaggiano delle feste del Signore, e invece vivono come separati da Dio loro Creatore tante persone in questi giorni. Io, così ho fatto a lungo. Io stessa non so come lo possa fare. In questo caso io non sono più il distratto, io. Egli si tranquillizzò e mi guardò con infinita gratitudine. Io, adesso la cosa ti diventa più leggera? Lui, sì, io, perché non preghi tu stesso? Lui, l'anima è soggiogata quando conosce la grandezza di Dio. Io, me la puoi descrivere? Lui, no. Pure lo straziante desiderio di rivederla è il nostro tormento. Io, sei con le altre anime? Lui, sì, però ciascuno è isolato. Io, come hai fatto a trovarmi? Lui, tu ti trovavi sulla mia strada. Io, e che cosa posso fare per aiutarti nel modo migliore? Lui, quando tu ti fai male e non commetti alcuna colpa. Io, però, tu esigi molto da me. La prima cosa passi, ma la seconda vorrei, ma non posso. Purtroppo sono sempre una povera creatura esposta a tante cose. Lui, quanto più tu sei pura, tanto più ci puoi aiutare. Io, e come ve ne accorgete? Lui, vicini a te noi non soffriamo. Io, ma andate piuttosto da una persona più perfetta. Lui, la via è segnata per noi. Io, da quali sfere potete venire da me? Lui, dalle più basse. Io, e dopo? Non rispose, però si fermò ancora a lungo. 7 maggio. Egli venne alla prima colazione del mattino, passò fra e me, via e qua. Era quasi una cosa insopportabile, non lasciar notare nulla. Finalmente potei andarmene, e quasi nel medesimo istante egli era di nuovo accanto a me. Io, per favore, non venire, mentre sono fra la gente. Lui, ma io vedo solo te. Io, ma tu conosci pure le camere dove sei stato tante volte. Lui, sì, allora mi venne incontro e mi poggiò le sue mani sulle spalle. Quando era vivo non mi era stato simpatico proprio niente, ed ora tanto di meno. Io, lasciami stare. Non voglio che tu mi tocchi. Lui, adesso tu sei pura. Io, ti accorgi che oggi sono stata alla Santa Comunione? Lui, è appunto questo che mi attrae. Ho pregato a lungo con lui. Ora aveva un'espressione assai più contenta. Scrivo tutte queste cose molto malvolentieri. 9 maggio. Luigi Zeta fu qui molto a lungo, purtroppo indaffarato, ed ha continuato a singhiozzare. Io, perché oggi sei così triste? Non la ti va forse meglio? Lui, io vedo tutto così chiaro. Io, che cosa? Lui, la mia vita perduta. Io, se hai adesso ancora pentimento, ti aiuta? Lui, troppo tardi. Io, hai potuto concepire questo subito dopo la tua morte? Lui, no. Io, ma dimmi, come è possibile che tu ti puoi mostrare solo così come eri da vivo? Lui, per la volontà. 10 maggio. Mi sta per accadere qualche cosa di nuovo e ne ho paura. 13 maggio. Zeta è qui assai agitato. Io, quando vorrai star fermo? Lui, tu sei divisa. Io, ti accorgi che c'è ormai qualche cosa di altro, che mi sta attorno. Lui, sì. Io, e tu puoi scacciare quell'altro? Lui, no. Io, che cosa è? Lui, dammi l'ultima cosa che hai, poi sono libero. Io, bene, allora non voglio pensare ad altro. Egli era sparito. Per la verità non è tanto facile ciò che gli ho promesso. Comunque proverò ad eliminare totalmente ciò che tormenta. D'altra parte io non posso accontentarne due. Devo ammettere qualche cosa, mi sono sentita così infelice e così terribilmente sola, che che ho pianto come una bambina. Mi sento sempre tanto poco disposta a sacrificarmi. 15 maggio. Io, sei contento adesso? Lui, la pace. Io, viene sopra di te? Lui, verso la luce abbagliante. Durante il giorno venne 3 volte, sempre un po' più contento. Fu proprio il suo commiato. 16 maggio. Svegliata da un frastuono spaventoso, nella mia stanza c'era un vero uragano. Mi sono alzata, fuori non c'era il minimo soffio di vento. Ed ecco una grossa palla che rotolava per la stanza, oppure una specie di botte malfatta, non saprei dire di preciso che cosa era, era solo da spaventarsi. Poi mi sentii chiamare con molta chiarezza. Io ero del tutto fuori di me stessa, poi ci fu un colpo e tutto fu di nuovo quieto ed io potei ancora riposare un pochino. 17 maggio. Ancora qualche cosa di simile, tuttavia non del tutto così terribile. Ho visto in giardino 2 donne, che mi venivano incontro, sparirono di colpo.